1791. Carissima, amatissima mogliettina, torno ora dall'opera. Il teatro era affollato come sempre. Il flauto magico sta crescendo sempre più nella stima del pubblico e quello che mi fa più piacere è l'approvazione muta. È straordinario che la stessa sera in cui il flauto è stato rappresentato qui per la prima volta, con tanto successo, a Praga abbiano dato l'ultima replica della Clemenza di Tito, anch'essa con immenso successo. Oggi sono salito in palcoscenico al momento dell'aria di Papageno con il Carrion perché avevo voglia di suonarlo io. E ho fatto uno scherzo. Quando Schikaneder ha la sua prima pausa, ho suonato un arpeggio. Lui si è spaventato, ha guardato in quinta e mi ha visto. Alla seconda pausa non l'ho fatto, ma lui si era già fermato e non voleva proseguire. Ho indovinato il suo pensiero e ho suonato un altro accordo. Allora lui ha dato una botta al Carrion e ha detto: chiudi il becco! Tutti hanno riso e credo che solo per questo molti si siano accorti che non è lui a suonare lo strumento. Vorrei scrivere un libro, una piccola serie di critiche musicali con degli esempi, ma non con il mio nome. Abbiamo trasmesso un critico musicale del Settecento, Wolfgang Amadeus Mozart. Lettura concerto di Sandro Cappelletto e Stefano Vizioli. Hanno partecipato il soprano Tosi Poleri, il tenore Luigi Petroni, il baritono Roberto Abbondanza, il pianista Stefano Arnaldi, la violinista Flavia Salerno e gli attori Enrico Di Troia, Nadia Ferrero e Walter Maestosi. Ripresa stereofonica.